gioco io mi rimetterò. Errori so che ne rifarò, di nuovo io ricomincerò da qui, attore, spettatore di un film. L'attore che lasciai tempo fa, adesso ricomincia da qui, sicuro solo della sua volontà e forse più consapevole. Ricomincio da qui, dalle foglie bruciate, dal fuoco e dalla loro età. Ricomincio da qui, dalle cose imparate, da quelle che ancora capire non so. Non c'è alcun dubbio che le storie nascono tutte così, con grande mistero e grande fascino, che importa se poi si perdono. Io ricomincio da qui, lo sai perché, per dirti quel che non ti ho saputo dire e per poter dire grazie a un amico per quel che mi ha dato. Suo profumo che aiuta a iniziare così il giorno che attende lì davanti a me, paziente e imprevedibile. Ricomincia da qui questa musica mia, abbracciando realtà e fantasia, come l'alta marea che protegge la riva per dare alcun dubbio che le storie nascono tutte così, con grande mistero e grande fascino, che importa se poi si perdono. Io ricomincio da qui, lo sai perché, per dirti quel che non ti ho saputo dire e per poter dire grazie a un amico per quel che mi ha dato. In gioco io mi rimetterò, errori so che ne rifarò, di nuovo io ricomincerò da qui, attore, spettatore di un film.